Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Oggi piove, quindi Jane, la magnifica cavalla bianca che di solito uso, è dovuta restare a casa. Mentre stamani la stavo salutando, mia sorella, quella grande, mi ha detto: quella non è un cavallo, è una bicicletta. Poveraccia. Si vede proprio che ormai è un'adulta. Mi chiamo Laura, ho 44 anni, sono sposata, ho 3 bambini e vivo a Roma. 3, 2, 1, stop! Bravo, no, la base possiamo rimetterla, Paolo. È ufficiale, sono le 16:08 minuti di venerdì 15 giugno 2012 e da questo momento non si può più votare qual è il racconto che vorreste risentire al live di martedì prossimo. Chi ha dato ha dato, chi ha avuto ha avuto ed è andata. E i racconti sono arrivati e sono stati votati sia sul form che era presente sul sito di Radio 24, alla nostra pagina, ma non solo, era un pop-up che si apriva, ma anche attraverso l'indirizzo email che voi siete qui, @radio24.it. Qualcuno l'ha giustamente votato anche attraverso il profilo Facebook di questo programma, che è Voi siete qui, Radio 24. Ma niente, ormai non serve più sapere tutto questo perché di fatto è scaduto il tempo. Quindi lunedì, giusto? Lunedì faremo il conteggio ufficiale dei 10 racconti più votati e ve li comunicheremo. O forse no. No, non li comunichiamo. Facciamo che è una sorpresa, giusto? Per cui martedì sera chi viene se li sente. Chi non viene invece può attaccarsi a internet, andare sul sito di Radio 24 a partire dalle 21 più o meno. Il live è dato, l'inizio è dato per le 21. Forse ci saranno quei 5 minuti di ritardo nel caso, come l'anno scorso, qualcuno arrivi un po' dopo. Quindi più o meno dalle 21:00, 21:05, se non siete dalle parti di Milano, se non siete riusciti ad accaparrarvi un posto per il live, potete seguirvelo in diretta live streaming sul sito di Radio 24. Poi vi diremo come fare, ma vabbè, sarà semplice, basta aprire la pagina di Radio 24 e già dalla home page ci sarà il video su cui cliccare per animarlo. C'è un'altra notizia legata al live e poi chiudo con questa storia. È da ieri che sono ormai chiuse le prenotazioni perché sold out, non ci sono più posti a disposizione. A questo proposito però, scusatemi, io vorrei chiedere un piacere alle persone che magari si sono prenotate molto tempo fa, all'inizio, circa 3 settimane fa, quando abbiamo lanciato l'evento, e magari hanno avuto qualche problema, per cui sanno che non potranno venire, per cui avranno problemi di lavoro, di famiglia, o semplicemente gli è passata la voglia. Se vi siete prenotati e non potete venire e ci sono anche solo 10, 15, 20 posti liberi, ci sono persone che semplicemente avevano aspettato ad iscriversi perché non sapevano se erano libere e lo farebbero volentieri adesso. Quindi fate una cosa: se davvero non potete venire ma avete la prenotazione, voi scrivetemi, voi siete qui @radio24.it, e vediamo magari di smazzare in una sorta di lista di attesa. So che Elena ed Elisa del marketing adesso si staranno mettendo le mani nei capelli, e se non entrano in studio in questo momento è solo perché sono a picchiarmi, è solo perché sono in diretta. Ma guardate, Elena, Elisa, ce la gestiamo noi questa cosa. E Margherita ha già un collasso perché sa che significa che te la deve gestire lei. Prima ho visto una splendida email di Margherita che rispondeva a una richiesta di Tiziano a proposito di un lavoro che dovevamo fare per l'estate, che diceva: sì, magari lo facciamo dopo il live, così evito di morire. 349-238-6666, voi siete qui, @radio24.it. Il racconto di oggi è un racconto che mi piace veramente tanto, l'ha scritto Laura e parla della capacità di immaginare che abbiamo, o meglio, parla della capacità di far finta, che è una cosa che è tipicamente infantile, che accade ai bambini ma in realtà accade anche agli adulti. Alcuni lo fanno di proposito, altri meno, alcuni se ne accorgono e altri no. Però questa capacità di immaginare, di avere degli amici immaginari ad esempio, dei mondi immaginari in cui vivere, è una cosa che ci portiamo dietro da allora. 349-238-6666. Giuliana mi scrive su Facebook: mia sorella da piccola aveva un amico immaginario e ci parlava pure. Anche mia figlia più piccola l'ha avuto per un po' di tempo e con l'esperienza mia sorella non me ne sono affatto preoccupata. Esther, ce l'ho avuto gli amici, d'altra parte ce l'ho ancora e li avrò per sempre. E poi ancora, da anni mi immagino di vivere in un altro paese, scrive Luca, ma questa è un'altra cosa. Claudia, sì, la bambina invisibile era la mia, però non aveva un nome. È Shining, vero, che il figlio di vabbè, di Jack Nicholson, non ricordo il personaggio nel libro, ha un amico immaginario che ha a che fare con la luccicanza, che è questa cosa che lui possiede, che parla con il mignolo, giusto? Non mi ricordo come si chiama. Se qualcuno si ricorda come si chiama l'amico immaginario del bambino di Shining, 349-238-6666. E poi ancora, Caterina, il mio figlio Emanuele aveva un amico immaginario di nome Budi, che per me è stata una sorta di suo alter ego. Cristina invece, io avevo i superpoteri da ragazzina, ci facevo di tutto, cose belle e cose brutte. 349-238-6666. Vi consiglio di alzare il volume e ascoltarvi la storia di Laura. È una piovosa mattina di primavera. Sto andando a scuola conciata in quella buffa maniera in cui i grandi riuscivano a vestire i bambini negli anni 70. Accanto a me cammina elegante e potente la mia tigre. Quando arrivo a scuola si sdraia accanto al mio banco e aspetta che le lezioni finiscano. La maestra e i compagni non ci fanno caso, e come potrebbero d'altra parte. Harry è invisibile a tutti tranne che a me. Oggi piove, quindi Jane, la magnifica cavalla bianca che di solito uso, è dovuta restare a casa. Mentre stamani la salutavo, mia sorella, quella grande, mi ha detto: quella non è un cavallo, è una bicicletta. Poveraccia. Si vede proprio che ormai è un'adulta. Poter fuggire ogni tanto dalla realtà è sempre stato un modo di passare il tempo, di divertirmi e di rimandare anche qualche volta qualche problema. Una cosa che ti fa molta compagnia, che ti consente anche di esplorare il tuo subconscio, di vivere certe emozioni in una maniera più indiretta. Secondo me fa molto bene ai bambini avere un mondo immaginario. La mia è stata un'infanzia pura e assoluta, popolata di esseri meravigliosi e altri tremendi, di grandi paure per piccole cose e di immense gioie quotidiane. C'era soprattutto tanto tempo per giocare. Non so se sia stata un'infanzia felice. Tutto sommato ricordo un certo senso di frustrazione, ma di tante cose che mi sono rimaste c'è questa strana capacità di far finta, che ancora oggi mi aiuta in qualche momento difficile o anche solo noioso. Adesso ci vuole un po' più di impegno per far finta e molto raramente raggiungo quella vertigine di realismo che mi era così consueta. Probabilmente è il primo passo per la pazzia, ma del resto mia madre diceva che il mondo è una via di mezzo tra un manicomio e un asilo infantile. È per quello che non ho mai raccontato a nessuno dei miei far finta, di quando sono diventata campione del mondo di calcio, di quando ho scoperto una medicina miracolosa e ho vinto il Nobel, di quanto è bello volare e di come ho speso tutti quei miliardi che ho vinto alla lotteria, di quanto posso essere bella ed elegante solo facendo finta. Non so, ma ho come la sensazione che non a tutti piacerebbe sapere che qualche volta in casa si aggira una tigre. Ancora oggi quello per cui mi serve di più è quando mi annoio, quando ho tempo, qualche volta per addormentarmi. Uso questo sistema di immaginare cose. L'altra sera ho trovato mio figlio che redarguiva con un certo cipiglio un essere invisibile. Io non sono una mamma che spia e cerco sempre di lasciargli i suoi spazi, come volevo che facessero con me quando ero piccola. Ho ascoltato per un po' e avrei voluto tanto girarmi e farmi gli affari miei, ma è stato più forte di me e mi sono arresa, quindi gli ho chiesto con chi parlava. Sto istruendo il drago, mamma, mi ha detto. Beh, magari a lui un giorno lo potrò raccontare. Laura ci ha raccontato di quando faceva finta. Aveva una tigre al suo fianco e andava a scuola su un cavallo bianco. E usava molta fantasia. Non è certo l'unica ad aver vissuto un'infanzia piena di personaggi inventati e di avventure fantastiche. L'importante è distinguere la differenza e ricordarsi che si può far finta di sapere volare, ad esempio, ma non si può volare veramente. Io ricordo un gioco di quando ero ragazzino che cominciava con queste parole: facciamo che ero. E dipende da chi cominciava, ma poteva diventare qualsiasi cosa. Facciamo che ero un dinosauro e voi scappavate perché io potevo mangiarvi tutti. Facciamo che c'era un incendio e io ero un pompiere e voi eravate lì e io vi salvavo. Oppure facciamo che io ero un principe e tu eri la principessa. Erano tutti giochi in cui si faceva finta e ci si divertiva a inventarsi dei mondi diversi da quello in cui si viveva. Poi, finito il gioco, si tornava a casa. Ecco, da grandi è un po' più difficile staccarsi dalla realtà. E non si gioca a facciamo che ero. E allora si leggono i libri e si guardano film, serie televisive. Così si vivono storie raccontate da altri e ci si immedesima e si sogna di essere altrove. Eppure siamo in un mondo che è tutto concentrato sulla trasparenza, sul voler vedere, sul voyeurismo, no? Il mondo dei reality o di chi l'ha visto. Dove farsi gli affari propri pare una cosa brutta. Un mondo in cui si spia dal buco della serratura e dei politici non ci interessa cosa facciano per il bene del paese, ma come passano le serate. Pensiamo che sapere tutto ci aiuterà, quando invece forse ci mette ancora più angoscia. Chi l'ha detto che essere perfettamente coscienti di ogni cosa che facciamo sia davvero un bene? Io non voglio fare discorsi qualunquisti, non voglio dare l'idea di uno che se ne sta chiuso in casa e non vuole sapere niente del mondo, anzi, è il contrario. Io sono molto curioso e voglio conoscere tutto, soprattutto le cose delle persone, le storie della gente, però capisco che sapere tutto di tutto possa mettere angoscia. Io ad esempio ho un amico che vive in campagna, non ha la televisione, non legge i giornali e trovo che sia una cosa molto snob e anche molto elegante per certi versi. E ci sono un sacco di persone che magari non vivono in campagna ma dicono che non guardano il telegiornale perché gli fa schifo e che usano la TV solo per la PlayStation o per i film che hanno scaricato. Che è una cosa che fa figo, però secondo me più che altro è un modo per autodifendersi. Perché sapere tutto significa sapere tutto, anche le cose brutte. E vivere sapendo tutte le cose brutte che succedono, anche lontano da noi, è faticoso. Per secoli gli uomini hanno vissuto sapendo a malapena che esisteva il paese a fianco. E invece noi dobbiamo prenderci carico di tutto il mondo, e anche degli animali, e della natura, che poi non è che ci possiamo nemmeno fare niente. E allora forse quello che non guarda i telegiornali ma fa il suo lavoro e poi legge i libri, si sta difendendo, lo sta facendo bene. In fondo anche lui fa finta, come Laura, solo che lo fa da adulto. Fa finta di non sapere che nel mondo ogni giorno muoiono di fame 26.000 bambini, ad esempio. Fa finta che non esista il doping. E fa finta che i pinguini non facciano quella vita bestiale per portare avanti e indietro un uovo in mezzo al gelo per centinaia di chilometri in Antartide. Fa finta di non sapere che in certi paesi è severamente vietato essere gay. Fa finta di non sapere che la temperatura media del pianeta si sta alzando e che la carne che mangia è di animali che vengono torturati, spesso prima di essere uccisi. Ecco, mi è venuta una malinconia bestiale solo a dirle queste cose, che un po' lo capisco col mio amico snob, a dire la verità. Io voglio però continuare a non fare finta e voglio sapere tutto quello che posso, anche se non posso farci niente, perché posso mentire a tutti, ma non a me stesso. Il mio amico immaginario si chiamava Oscar, era sulla sedia a rotelle, mi usciva dall'orecchio e mi raccontava favole prima di dormire. Max. Amico immaginario si chiamava Provolino. Ciao Roberto. E poi quelli che mi dicono come si chiamava l'amico immaginario di Shining, uno mi scrive forse Redrum, no, Redrum era la scritta letta al contrario che era Marder, si chiamava Doc, no, Doc era il soprannome del bambino, Tony, l'amichetto è Tony, ce lo scrivono su Twitter, sul profilo Twitter del programma che è Voi Siete Qui Radio 24, poi ancora Enzo mi dice Marcellino Pane e Vino aveva Miguel come amico immaginario. Nessuno si fa mancare questo amico immaginario. 349-238-6666. Poi non capisco perché mi è arrivato più di un messaggio, quindi avete ragione voi, evidentemente. Ma che voce hai oggi? L'hai lasciata a Verona? Hai una strana voce? Chi parla per te il tuo amico immaginario? Non lo so, probabilmente non l'ho lasciata a Verona, forse l'ho lasciata su un campo ieri sera dove si è giocata una partita di cui preferirei gloria eterna, esatto. Per i vincitori, spazzatura. Per gli sconfitti. Appunto, di cui preferirei non ricordare il risultato. Grazie Paolino per averlo fatto, solo perché giocavi nell'altra squadra. 349-238-6666. Qualcuno che è un amico immaginario. Non ho capito se ce l'ha ancora tutt'oggi oppure no, lo chiedo direttamente a lei. Pronto Laura? Ciao. Come stai? Bene, grazie. Senti, l'amico non c'è più. Non la, ce l'hai la più? Ah, no, okay. Non so dove, quando l'ho persa, però ci ho pensato in questi giorni. No, non c'è più da un sacco di tempo. Quindi non ti ricordi se c'è stato proprio un giorno barriera oltre il quale è sparita? No. Semplicemente no. Lentamente è sfumata. Senti, tu che lavoro fai, Laura? Faccio il giudice. Il giudice di che cosa? Faccio alla domanda. Corte dei Conti. Alla Corte dei Conti, quindi di cosa ti occupi? Numeri. Enti locali, cose insomma un po'. E di solito dai anche risposte, diciamo, lapidarie, considerato come rispondi sì. Alle domande. Ma sei al lavoro adesso? Sei in tribunale? No, adesso no. Ma che turni fai in tribunale? Ma dipende, di mattina comunque in generale. Ok, senti, invece parliamo di tuo figlio e del suo drago a questo punto, visto che... Mi ha detto appena adesso che si chiama Cesare, volevo informarti. Ah, ti ringrazio. E sappiamo qualcosa di più di lui? Cioè tu gli hai chiesto qualcos'altro? Sì, oggi gli ho raccontato del racconto, gli ho detto che si parlava anche di lui e lui mi ha detto, ah sì, il drago Cesare. Ah certo, lui l'ha dato per scontato, come se tu sapessi il suo nome. Beh sì sì, mi ha detto che si chiamava così, ma poi mi ha spiegato come è fatto, vabbè sarebbe un discorso lungo. Senti, senza entrare nel merito, senza fare appunto la psicologia del supermercato, però tu sei riuscito a capire che funzione abbiano avuto questi tuoi amici immaginari, questi personaggi immaginari che riempivano la tua infanzia? Non lo so, molto era una questione di compagnia, qualche volta anche di sicurezza. La tigre era una grande fonte di sicurezza. Ah beh certo, perché camminare con una tigre di fianco diceva, a voglia, venite pure, ci pensa lei. Esatto. E poi appunto compagnia, giocare, in te non erano amici, nel senso non parlavo con la tigre o lei non parlava a me, però potevamo giocare insieme, andavo a cavallo, facevo insomma cose molto belle che non avrei potuto fare diversamente. E scusami, è vero che non l'hai mai detto a nessuno? No, forse l'ho raccontato, forse ai miei figli, loro per esempio conoscono un pupazzo di una tigre che comunque insomma, mi ricorda quello, però no, così specificamente no, non mi è mai capitato di raccontarlo. Senti Laura, mi è parso di capire che non hai voglia di parlarne, infatti non ti farò altre domande, però mi dici, però te la faccio, mi dici l'ultima cosa che hai giudicato? Non si può dire. Rendiconto 2000, sì lo posso dire, rendiconto 2011 della Regione Toscana. Ok, e come l'abbiamo giudicato? Bene, i giudici sono, ma buono, non era male, così così, 7 e più. Senti, quindi tu domani sai già che cosa dovrai giudicare, sai già che lavoro avrai? Sì, sì. Sì, sì, va bene, però non abbiamo voglia di parlarne. Senti, no, di questo proprio no. Va bene, Laura, senti, io ti ringrazio però molto per il tuo racconto. Immagino tu non sia la persona che viene da Roma per il live di martedì prossimo. No, però, no, mi dispiace. Però se non hai di meglio da fare e hai un computer davanti, magari anche 5 minuti te lo puoi proprio vedere, perché c'è una telecamera e quindi te lo puoi vedere dal sito di Radio 24. Va bene, grazie. Laura, grazie mille, in bocca al lupo. Grazie a te. Ciao, buona giornata, grazie. Antonella scrive, i miei amici immaginari erano Actarus, quello che pilotava Goldrake, e Hiroshi, quello di Gig Robot d'acciaio. Voi siete qui. È una bella donna, Laura, e assomiglia, come suggerisce Margherita, molto, o almeno in questa foto, assomiglia a Margherita Bui. Trovate la foto sul sito di Radio 24, alla pagina di Voi siete qui. Ha una faccia sorridente, ha i capelli biondi e gli occhi azzurri o verdi chiarissimi, ha le mani incrociate e ha la faccia seria, anche se sorride. Mi piacerebbe dirvi che indossa una toga, ma non è così, ha su un gile nero con delle fasce rosse. Anche se però, forse è una toga da giudice donna? No, perché le toghe sono tutte uguali, non cambiano giusto il colore della toga. Vi ricordo, vedete la foto che tutti i giorni vi racconto e che tutti gli ascoltatori autori dei racconti ci mandano, la vedete sul sito di Radio 24, la pagina di Voi siete qui, dove trovate anche la playlist del giorno, cioè i tre brani che Tiziano sceglie per questo programma, e da qualche giorno trovate anche il segnaposto che dovete portarvi dietro al live di martedì sera, cliccandoci sopra e stampandolo, possibilmente a colori, nei formati che preferite, a 4, a 3, a 20, come volete, l'importante è che lo portiate con voi. E a questo proposito, è una sorpresa quindi non lo posso dire, ma ho tra le mani in questo momento, e ringraziamo il marketing e tutta la radio per averci fornito questa sorpresa, che di fatto è un regalo che avrete anche voi martedì sera. Cos'è questo gesto, Tiziano? Ah, dentro, ok. Facciamo un gesto con una mano verso il basso, che troverete dentro la borsa di Radio, l'immancabile borsa dei gadget di Radio 24. Questo però è davvero un bel regalo. Grazie ancora alla radio, e posso dire che non posso dire niente, posso dire solo che ce l'ho tra le mani. Posso dire una cosa? Un indizio. Allora, cazzozza. Un indizio che posso dare è che peserà un etto e mezzo, no, un etto e mezzo di prosciutto crudo, peserà tre etti e mezzo, basta, altrimenti mi viene da dire che ha un numero di 349-238-6666. Io avevo un amico immaginario che era il bimbo dai capelli rossi dei Rugrats. Cosa vuol dire? Forse hai scritto male, forse un cartone. Il mio amico immaginario si chiamava Al Samdu ed era un supereroe creato da me, Alessandro da Udine. E poi qualcuno mi scrive in Chocolat, che è quel film con la attrice francese, il bambino aveva un canguro come amico immaginario. Simone, visto che si parlava di capacità di immaginazione di amici immaginari e di oggetti immaginari, abbiamo trovato, Tiziano ha trovato un pezzo che racconta della nascita in letteratura di quella che è definita la sospensione dell'incredulità, ed è la capacità appunto di sospendere il proprio giudizio e di sospendere il proprio la volontà di giudicare tutto secondo un principio di realtà. Il primo a scoprirla e a raccontarla si chiamava Samuel Taylor Coleridge, e la sospensione dell'incredulità più o meno è questa cosa qui. La sospensione dell'incredulità consiste nella sospensione volontaria da parte del lettore, spettatore o ascoltatore delle facoltà critiche per poter godere di un'opera di fantasia a pieno. È stato Samuel Taylor Coleridge a mettere a fuoco questo concetto per la prima volta. Venne accettato, scrive, che i miei cimenti dovevano indirizzarsi a persone e personaggi supernaturali, o almeno romantici, ed anche a trasferire dalla nostra intima natura un interesse umano e una parvenza di verità sufficiente a procurare, per queste ombre dell'immaginazione, quella volontaria sospensione dell'incredulità momentanea che costituisce la fede poetica. In sostanza, il pubblico accetta le limitazioni nella storia presentata, sacrificando realismo e occasionalmente logica e credibilità per il bene del divertimento. La sospensione dell'incredulità è una componente essenziale nella fiction. È anche un ingrediente fondamentale per le opere fantasy e di fantascienza, in cui il fruitore, in nome del sense of wonder, accetta l'esistenza di esseri, poteri soprannaturali o tecnologie inesistenti nel mondo reale, e che spesso sono contrari a principi scientifici già noti, o alla semplice logica. Come il fatto, ad esempio, che diverse razze extraterrestri abbiano un aspetto antropomorfo e parlino tutte la stessa lingua. L'importante però è che tali violazioni avvengano all'interno di determinati canoni e che non risultino incoerenti tra di loro. Ad esempio, se in un film di fantascienza ambientato sulla Terra è accettabile la presenza di extraterrestri in grado di volare o comunicare telepaticamente, difficilmente il pubblico troverà coerente il fatto che anche i terrestri possano presentare poteri simili. Mi spiace che qualcuno proprio non fa in tempo a dire non si può più votare, qualcuno subito 349-238-6666, voglio risentire il racconto di Scagnolari. Il racconto di Scagnolari è effettivamente uno dei più votati, che poi in realtà si chiamava La Francheo, credo, però è diventato per tutti Scagnolari. Ne abbiamo già riparlato e quello che sappiamo, quello che possiamo dire al momento, non sappiamo se ci sarà, è che però Massimo Neriotti sarà della serata martedì prossimo qui dalla sede di Radio 24, via Monterosa 91. L'appuntamento per tutti quelli che ci saranno al live è quello, è martedì 19. L'appuntamento per tutti quelli che ascoltano invece è per lunedì, le ultime due settimane di programma prima della fine di giugno, lunedì alle 16 come al solito. La storia di oggi era di Laura e parlava di amici immaginari, quella di lunedì è di Roberto e parla di Erasmus.